Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e undici minuti primi, ritorniamo in voce dopo Roots Corner. E questo è l'appuntamento dalle ore 21 alle ore 22:30 circa con Do It Yourself Invasion. Siete sempre all'ascolto sulle 87.9 in FM di Radio Onda Rossa e quindi sulla banda romana e laziale delle 87.9, mentre in diretta streaming sul restante globo terracqueo attraverso il sito di Radio Onda Rossa, raggiungibile al www.ondarossa.info, e quindi andando a cliccare su Ascolta sempre attraverso il sito potrete rimanere aggiornati con tutte le notizie che vengono registrate nell'arco della giornata, i podcast delle trasmissioni. Nonché andando a cliccare su palinsesto potrete ascoltare anche i podcast delle trasmissioni passate di Do It Yourself Invasion. Va bene, sarò breve e conciso perché insomma gli ascoltatori della trasmissione qui si lamentano, va bene. Non sono tantissimi, però insomma ascoltatori importanti. Va bene, troppo criptico. Sempre attraverso il sito della radio potete e dovete sostenere questo progetto nato libero nel 1977 andando a cliccare su Sostieni. Eh sì, perché da quasi 40 anni riusciamo a trasmettere grazie al libero contributo di ascoltatori ed ascoltatrici. Quindi continuate a sostenere questo progetto E quindi andando a cliccare su sostieni sarete indirizzati ad una pagina dove troverete tutte le modalità per poter sostenere Radio Onda Rossa. Potete sottoscrivere Radio Onda Rossa attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Se volete scrivere a Radio Onda Rossa potete farlo attraverso l'indirizzo email della redazione, ondarossa@ondarossa.info, mentre se volete scrivere a Do It Yourself Invasion potete farlo scrivendo a fantasma@ondarossa.info. E quindi per proporci le vostre autoproduzioni musicali, nonché segnalarci le vostre iniziative, saremo ben felici, insomma, di usare questo spazio per voi. Novità di questa settimana è che negli studi di Radio Onda Rossa è arrivata la nuova scarceranda. E quindi è la sua 17ª edizione. Dal 1999 l'autoproduzione più importante di Radio Onda Rossa. E quindi è il costo di 12 euro agenda più quaderno. E vi ricordiamo che per ogni agenda acquistata ne sarà inviata una gratuitamente. A chi si trova dietro le sbarre. E quindi scarceranda che potrete trovare qui negli studi di Radio Onda Rossa, oppure nelle prossime iniziative a presentazione appunto della nuova scarceranda. Poi più avanti nel corso della trasmissione ve le andremo un po' a raccontare. E noi iniziamo la scaletta con un pezzo dei Contropotere. Abbiamo chiuso così la scorsa puntata. E così un po' ricominciamo. Qui da una ristampa a celebrare il trentennale del demo dei Contropotere è arrivato a PUC. E questa è la quarta traccia, Chiusi in gabbia. E nel frattempo ci arriva una prima richiesta. Ci siamo dimenticati di comunicarvi il numero di telefono, è sempre lo storico dal 1977, lo 06 49 1750. E quindi ringraziamo Fabietto Mosch che ci segnala gli auto Blasting Dog. Qui da un lavoro del 2014. Dal titolo ci provo, tutto d'un fiato. Sì, il lavoro dal titolo Batracomio Machia. Eh? E questa è la loro Pollo. E ci stavamo preparando appunto per la seconda richiesta. E loro sono i Paperoga, dai. No, la copertina è fantastica. Dal loro lavoro My Super Sweet Feasting. Da Iesi. Sempre un lavoro uscito nel Natale del 2014. E qui ce li ascoltiamo con la loro Larry non mangia. Oh no, Eh sì, grazie Fabio Mosch per le segnalazioni. Molto molto bene. Allora, questa settimana arriva la quarta edizione del Roma Ladrona. Un festival dedicato al drone e ai confini, insomma, della sperimentazione sonora. Tutto questo accadrà venerdì 2 e sabato dal Verme. E ci ascoltiamo alcuni dei gruppi che insomma saranno presenti questo venerdì e sabato al Roma Ladrona. Venerdì ci saranno i Lettera 22, un duo da Vittorio Veneto. Loro sono i Lettera 22, questa è la loro Physical Point. E allora questo è un bel assaggio dei Lettere 22 con la loro sperimentazione del tutto astratta. E un altro assaggio di quello che potrete trovare al Roma la Ladrona sono i Rota de Ferro, gruppo di Roma dedito alla metallurgia vera. Allora proviamo a farvi sentire qualcosa dei Rota de Ferro, eh? Rota de Ferro è un gruppo assolutamente da vedere dal vivo. Eh sì, perché l'armamentario, la strumentazione dei Rota de Ferro è costituita da frullini, seghe circolari, barre di metallo. Allucinazione vera. E vi andiamo a ricordare che questo sabato ci sarà la prima presentazione della nuova Scarceranda al Nido di Vespe in via dei Ciceri 131 al Quadraro. E quindi una serata per Radio Onda Rossa dalle ore 19, appunto, con la presentazione della nuova Scarceranda, l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno, con una cena a buffet e i concerti a seguire di Hellspite e Reverend Knopf. E quindi dalle sonorità lisergiche ed allucinate della Roma ladrona. Ci spostiamo al folk di Hellspite. E questa è la sua Last Summer. baptism for me. When God's redeemed has beaten keys, I'm going down to see my mother. She says she meal me when I come, and just go over Jordan. Stai lì in pochissimi secondi. Ok, ok. Vabbè, l'avete sentita poi in diretta la presa della telefonata. Abbiamo Valentino in linea. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio. Ciao. Allora, insomma, ci chiami per un'occasione importante, mi pare di capire. Sì, sì, importantissima. È il terzo anniversario del Club della Merda. Ah. Sì, una congrega sotterranea che coinvolge un sacco di ragazzi dell'hardcore romano. E quindi volevo fare una dedica speciale a tutti questi zozzoni. Però aspetta, cioè, spiegaci un attimo di che cosa si tratta, che, cioè, da dove nasce questo club, come chiamarlo? Ma è quasi una setta in realtà, quindi più si tiene nascosto meglio è. Ho capito. Capito, non si può divulgare molto. Cioè, c'entra Gianluca. Ah. Un certo Gianluca De Nofu. Ok, va bene, quindi promette bene, è qualcosa sì, di... Sì, sì, sì. Benissimo, benissimo. Va bene, quindi non ci puoi svelare nient'altro? Niente, mi dispiace. Solo a tu per tu, sì, ne possiamo parlare. Cioè, in radio così non è possibile, purtroppo. È tipo una congrega massonica? Quanto di peggio si può immaginare? Questo è il club. Ho capito, non si può. Vabbè, io rispetto, insomma, il livello di segretezza del club della merda, giusto? Cioè, sì, sì, sì, sì. Ok. Io no, perché ho anche paura a fare delle domande, perché sembra veramente una cosa massonica che non so. Io rimarrei così, insomma, con questo alone di mistero. Io ti ringrazio che hai voluto, insomma, celebrare qui a Do It Yourself invece. Ma grazie a te, grazie a te. Lasciamo un alone marrone su questa faccenda. Bene, bene. Va bene. Tutto positivo. E come volevi celebrare? Io volevo farti la richiesta di passare la canzone dei De Paninos, Brindo con la Merda. Benissimo, benissimo. Io ti ringrazio. Allora, niente, lunga vita al club. Lunga vita al club. Grazie mille Valentino, grazie ciao, per il tuo contributo. Grazie, mille. Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E vabbè, insomma, come non onorare le richieste che ci giungono, e loro sono i De Paninos. Allora, sempre questo sabato, 3 dicembre. E quindi dopo la presentazione di Scarceranda, mi raccomando, dopo la presentazione di Scarceranda al Nido di Vespe, segnaliamo il concerto dei Chains al 360. Accompagnati dai Rake Off, i Leviathan e i Tibia. Qui già sono partiti i Chains dal loro ultimo lavoro, Crawling Stronger. Chains da Bologna, da capo. Se non sbaglio, i Rake Off sono della zona di Avezzano e dintorni, correggetemi se sbaglio. Qui dal loro lavoro in 2016. Sempre sul palco del 360 questo sabato. Ma solo dopo la presentazione di Scarceranda al Nido di Vespe, eh? ce li ascoltiamo da capo, questa è la loro Above the Law. E loro invece da Roma, i Tibia. E questa è la loro Waiting Time, Choosing Tears. veramente un bel mix di crust black metal, post hardcore. Questi appunto i Tibia, di Tibia da Roma. Da Roma e dintorni invece i Leviathan, vecchia conoscenza qui a Radio Onda Rossa. Ricordiamo l'anno scorso un concerto al Forte Prenestino con Cenere X, Cenere X, Rotten Koenig e appunto Leviathan. Per il concerto Against Repression Night, sempre a presentazione della scorsa edizione di Scarceranda, ottima occasione per riascoltare i Leviathan. Questa è la loro Vacuum. mentre il prossimo 7 dicembre un'iniziativa a sostegno dell'orto occupato di Montelanico al CSOA IPO di Marino. E quindi Branco Suidae in collaborazione con l'associazione Terra Madre di Montelanico organizza un concerto con Godog, Buttero, Mefitica, i Reclaim e gli Shred che stiamo ascoltando in sottofondo. Bar e cucina saranno nelle sapienti mani di Terra Madre, quindi con le loro autoproduzioni direttamente dall'orto occupato di Montelanico. E quindi tutte e tutti al CSOA IPO di Marino a sostegno di Terra Madre, che da 4 anni difende i terreni agricoli abbandonati di proprietà del comune di Montelanico. Noi ce li riascoltiamo da capo, loro da Roma sono gli Shred. E ce li ascoltiamo con Heavy Mental dal loro Still It In The Ground. Che fareste se io mi suicidassi? E in attesa che esca il prossimo nuovo lavoro dei Mefitica, eh sì, attendiamo da un pochino, eh? Qui dalla triade sotterranea, sempre sul palco del CSOA IPO di Marino, il prossimo 7 di dicembre, loro sono i Mefitica, questo è il loro Sangue di Latte. Da capo, eh? successo questa mattina, un po' dalle prime luci dell'alba. Abbiamo cominciato le nostre trasmissioni con notizie molto poco tranquillizzanti riguardo, diciamo, grossi spostamenti di truppe davanti a due luoghi occupati della vostra città, e ti darei subito la parola per raccontarci un po' che cosa è successo questa mattina e qual è la situazione al momento, visto che a un certo punto sono arrivate notizie molto preoccupanti da su. Ciao a tutti. Allora, alle 6 di mattina, partiamo raccontando prima l'operazione. Alle 6 di mattina la polizia si è presentata, come giustamente dicevi tu, davanti a due occupazioni, in particolare l'asilo occupato, il palazzo che c'è in Corso Centrale. Sono appunto sia davanti a queste case che davanti a case private di compagni. Hanno appunto all'asilo in Corso Giulio ci hanno messo un bel po' a raggiungere i compagni interessati da queste misure, perché chiaramente tenendo uno sgombero le barricate erano state chiuse e i compagni sono saliti sul tetto. Per esempio all'asilo ci hanno messo un'ora e mezza prima di riuscire effettivamente a raggiungere il tetto. Dopodiché, una volta ho capito qual era l'entità dell'operazione, che non era per uno sgombero, i compagni sul tetto sono scesi, insomma poi siamo stati portati tutti in questura. E l'ordine di custodia, diciamo l'ordine di misure, comprende 13 misure, di cui 9 divieti di dimora dalla città di Torino e 4 arresti in carcere. Ora, i fatti per cui il reato è violenza pubblico ufficiale in concorso e non privata come c'è scritto sull'ANSA. I fatti per cui siamo stati indagati è uno strazzo avvenuto a maggio di quest'anno. Un picchetto, praticamente in questo strato si era anche creata una situazione abbastanza particolare, di cui avevamo già dato conto sul blog, cioè attraverso un racconto sul blog Macerie. Praticamente picchetto, no? Di questo, insomma, al picchetto c'erano un po' di compagni, c'erano un po' di strattanti, un po' di gente dell'assemblea strati che appunto segue la questione degli strati qua a Torino Nord. Arriva abbastanza presto verso l'otto l'ufficiale giudiziario accompagnato dall'avvocato della proprietà. A un certo punto l'avvocato, questa avvocatessa smasta e sale, praticamente si rinchiude, svicolando i presidianti, si rinchiude dentro l'appartamento che era da, diciamo così, da liberare dall'inquilino, e dice: io mi chiudo dentro finché non, cioè nel senso, per protesta mi chiudo dentro finché voi lo strato non lo eseguite, no? Perché chiaramente l'ufficiale giudiziario, appena ha visto il picchetto, appena ha visto che c'era numerosa gente, stava consigliando o un rinvio oppure al limite la sospensione attraverso l'articolo 610 con l'incidente di esecuzione. E ora alla fine, dopo un appunto anche là un tira e molla, per dire una situazione molto paradossale, per cui eravamo tutti sotto alla casa con questa appunto tipa che stava alla finestra sbraitando, e tutti che più o meno più o meno gli consigliavamo di scendere, ma anche l'ufficiale giudiziario. Per cui c'è, cioè, una situazione veramente veramente rocambolesca. Esatto, surreale. Alla fine niente, dopo un quarto d'ora l'avvocato ha capito che tanto, cioè, poteva fare quanto voleva, ma lo strato comunque non glielo facevano, è scesa e basta. Lo strato l'ha sospeso, peraltro quello strato lì l'hanno eseguito a sorpresa, mi pare, a inizio settembre, per cui qualche mese dopo. Mm-hmm. Ora. Allora, questa dalla corrispondenza registrata questa mattina con un compagno di Torino. Voglio dire una... sì, perché le forze del cosiddetto ordine hanno fatto incursione in alcune case private, in quelle occupate di Aurora, per fare delle perquisizioni e notificare le misure cautelari per 13 compagni e compagne. Si tratta nello specifico di 4 custodie cautelari in carcere e 9 divieti di dimora nel comune di Torino. Nell'incursione hanno portato via anche un compagno senza i documenti in regola. E quindi Silvia, Antonio, Valid, Stefano e Daniele liberi, tutti liberi dal carcere e dalle misure cautelari. Era andata a chiudere tra questo appartamento da sola, alla fine anche... E quindi da questi microfoni vogliamo essere vicini ai prigionieri e alle prigioniere di Torino. Noi l'appuntamento lo diamo al prossimo, il prossimo martedì con Do It Yourself Invasion. E dedichiamo alle compagne e ai compagni di Torino un pezzo degli Young Gang, vedi che ti manca il respiro.